sono qui, sono qui. Adesso lo so, non me l'avevi chiesto. Me ne fotte, sono qua lo stesso. Sei come gli aeroplani, volo sopra le città, oltre alle canzoni che danno voce al cuore, come il cielo fanno i temporali. Avevo tenuto un posto a sedere, in prima fila nei meandri del cuore, sul tetto del mondo, a guardare sotto, vedi che questo non sarà mai nostro. Ma poco ci importa, avevamo di meglio, l'amore wifi e stavo connesso. Ma poco ci importa, avevamo di meglio, l'amore wifi e stavo connesso. Sono qui, sono qui. Adesso lo so che non l'avevi chiesto, ma me ne fotte, sono qua lo stesso. Sei come gli aeroplani, volo sopra le città, oltre alle canzoni che danno voce al cuore, come al cielo fanno i temporali. Un giorno poi, quasi per caso, trovo l'accordo che non trovavo, ricostruendo quello che sono, butto via quello che odio. Trovo coraggio, prendo coraggio, sputo in faccia alla realtà. Questo sono io e tutto il resto non importa. Sei come gli aerei.